Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Tu sei bravo. Ma che bravo. Sei bravo. No, no, no, no, no, no. Tu sei molto, molto bravo. E bo, e ba, e be, e bi, e bo, e bu. E bo, e ba, e be, e bi, e bo, e bu. Kiss me. Bésame. Embrasse-moi. Kiss me. Baciami. Ba, ba. Baciami piccina con la bo, bo. Bocca piccolina, dammi tan, tan, tanti baci in quantità. Ma questi baci a chi li devo dare? Sono d'accordo che due uomini vengono in tribuna a baciarci per provocare il Senato. Io dico che non è decoroso. Tentazione sei per me. Ma questa tentazione che cos'è? Tutti quelli che qui fanno i moralisti hanno votato che una minorenne fosse la nipote di Mubarak, ricordiamocelo, per scagionare il loro presidente, coinvolto in cene e festini, con tanto di baci saffici che non disturbavano. Con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Sono qui, sono pronta per incominciare. Quando il commesso deve intervenire perché provocatoriamente si baciano per provocare i senatori, fa bene il commesso a intervenire, perché ci vuole un decoro di quest'aula. Colleghi, se lui non trascende, ha diritto di dire quello che vuole. Bello sbarazzino, quale tentazione sei per me. Gravissimo affronto al Senato. In aula, no, non due senatori, erano due del pubblico, erano in tre per la verità, tre attivisti, tre omosessuali che sono andati lì a vedere lo spettacolo, e secondo Giovanardi si sono baciati provocando sdegno nell'aula, mancanza di decoro, mancanza di rispetto. E quindi intervengano i commessi, due uomini che si baciano in aula. E va, e be. E beh, ma che? Questo bacio che cos'è? Per la verità i protagonisti dicono: ma no, ma non ci siamo neanche baciati. Ma forse quando è arrivato un amico l'ho salutato sulla guancia, come sì. Fuori! Tanti baci in quantità. Vergogna! Baciami piccina, baciami piccina, baciami piccina, baciami piccina, va. Baciami, baciami, baciami. Per mia piccina. Per commentarla abbiamo rispolverato una canzone che risale ai tempi di Vincino, oserei dire, ai tempi di Vincino. Te la ricordi, caro Vincenzo? Sì? Vincenzo, io te la ricordi? Boh. Certo. Sei più... No, ma mi ricordo la Camera del Senato, la Camera dei Deputati. Ma perché tu frequenti? Ci si può baciare in aula? No, non si può fare niente. Niente? Niente, non si può prendere appunti, non si ci può baciare. Come non si può prendere appunti, scusa? Non si può prendere appunti. Cioè, nel pubblico non si può prendere appunti. Nel pubblico non si può prendere appunti. Orca, si può. C'è proprio un cartello laterale con scritto questo qua. No, è una cosa, si può solo guardare e basta. Guardare e basta. Poi, invece, nella cosa dei giornalisti, apposita, nella loggia dei giornalisti, si può prendere appunti. Prendere appunti così. Insomma. Ah, ma tra il pubblico no. Cioè, tu tiri fuori un block notice e track, arriva il commesso. E track arrivarono sei commessi per prendermi il block notice. Oh, sì. E io mi misi a cavalcione e no, non ve lo darò mai, in caso mi butto. Ah, perché è successo, come cavallo pazzo a Sanremo. È successo alla Camera dei Deputati con Nilda Iotti presidente. No, dimmela bene. Sotto tra dimmela radicali bene. E comunisti si sono picchiati, che c'è un giornalista democratico e sta per essere buttato fuori. Ma che democratico? Quello è... Pam! E allora la indotta ha interrotto la seduta. Di la verità, c'era qualcuno che diceva buttati giù, buttati, falla finita, Vincino, hai rotto le palle. Devo dire che i commessi della Camera erano bravissimi, delicatissimi. Ti tenevano, guarda, ti prendono con una delicatezza enorme. Cioè, poi fu salvato dai radicali che mi noce, questo è il nostro addetto stampa. Che misero un materasso sotto. No, cioè, hai fatto anche questa, hai minacciato anche di buttarsi questo, giù dalla Camera, camera, perché ti volevano sequestrare il block notice, mamma mia. Esattamente. Oh mamma mia. Allora, avete capito, c'è Vincino, buongiorno a tutti, insieme al nostro Massimo De Manzoni, che è il vice direttore di Libero. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Questa è l'ultima di Vincino, eh? Ogni volta si scopre un capitolo della sua vita, ovviamente sempre più periglioso, diciamo così. Tu Massimo, ti sei mai baciato al Senato? Non mi sono mai baciato al Senato, confermo quello che dice Vincino, anche per i giornalisti ci sono delle restrizioni, perché poi i regolamenti non si sono neanche adeguati alle tecnologie. Alcuni miei colleghi hanno avuto problemi, Bekis per esempio, sono fermato più volte perché non si può riprendere, cioè ci sono degli strumenti che non si possono introdurre, il cellulare per esempio, il telefonino. Già, visto, sì, perché si possono fare le fotografie che lì è proibito, per cui. Proibito. Cioè, ma nel senso, uno deve lasciare il cellulare se sta tre ore lì a seguire la seduta, deve lasciare il cellulare. No, ma è bellissima questa cosa. Sì, ci sono delle complicazioni. Ci sono delle complicazioni. Allora, ragazzi, insomma, pensavo che fosse il luogo della modernità, invece beh, no. Anche tu, però. Anche io, però. Questi barocchismi, vabbè. Allora, dai, si chiude la 145esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Molto, molto bene. Apriamo il Parlamento a questo proposito, perché così... Vado a prendere un ci caffè, siamo anche noi. Parlamento. Forza. Allora, da dove vogliamo cominciare? Qua ci sono tante notizie sulle banche, non lo so, queste magari appesantiscono un po', alle 6:35 del mattino. Allora, cominciamo invece da questa. Ma sapete che torna, rispunta Bertolaso? Massimo, hai visto che alla fine mi sa che sarà lui il candidato del centrodestra a Roma? Bertolaso. Il candidato del centrodestra a Roma è un gran ghignolo ormai, per questo. Sì. Dire mi sa che sarà lui è un'affermazione molto azzardata. Ah sì, effettivamente. Sì, perché penso che ci sarà qualcuno che dice no. Lui non mi va bene, allora candidati tu. No, ma io no, non posso, perché però adesso ne trovo uno io. È un giochino che va avanti da tempo. Però posso dire una cosa, sì, visto che la 250esima sarà le province, sì, quelle, sì, che sì, di, sì, no? Sì. E hanno approvato il mille proroghe. È vero. Nel mille proroghe, ovviamente, sì, c'è l'estensione c'è una proroga per il pagamento dei dipendenti delle province. Dei dipendenti? Delle province, oltre che... Beh, mica vogliamo buttarli per strada, mi sembra... No, vabbè. C'è la proroga che stabilisce anche questo, oltre però giustamente una proroga che ho trovato fantastica, che proroga di 3 mesi la possibilità di chiedere il riconoscimento per una medaglia dei partigiani caduti nella guerra della Seconda Guerra Mondiale. Sì, è vero. Allora, in questi 70 anni non c'è stato il tempo. Esatto, ho letto che Mario Giordano si è esercitato a dire magari vi siete dimenticati di uno zio, un nonno in questi 70 anni che merita la medaglia, sappiate che c'è una proroga. Sì, sì, abbiamo davvero cambiato verso. E vabbè, che devi fare? Non lo so, a te Vincino piace Bertolaso? Io mi sarei divertito così tanto con Rita dalla Chiesa, mamma mia. Con Irene Pivetti. Rita dalla Chiesa non è... No, Rita Pivetti la sai. Poi Rita Pivetti è di Milano, dai. Non Irene è che... Pivetti. Vabbè, ma ha preso tutta la camera. Non è nativa originale. Ma ho cosa capito. C'entra? Ma c'entra, perché vedi, il guaio di Marino è che non era nato a Roma, non era stato da giovane a Roma, non ma ha cosa vissuto c'entra? La capitale. Ma no, per esempio perché... il centrodestra a Milano si candida a Stefano Parisi, che è romano, anche se vive a Milano. Ma lui ha vissuto tutta la vita a Milano, dai. È più milanese di ma guarda che la Pivetti metà della vita vita l'ha passata da quando era presidente della Camera. A Roma, adesso credo che sia a Roma, dai. No. Non ci credo, no, parla no, ancora in milanese. Vabbè, Rita dalla Chiesa è di Roma, dai. Rita dalla Chiesa era andava bene. Era perfetto, no, era perfetta, dai. No, diciamo, era perfetta, cioè, esagerato. Sarebbe stato divertentissimo. Come dire, entrava sulla musica di Forum, sulla musica di Forum al Campidoglio. Con peccato che non ci sia più Santi Lichieri, perché sennò un assessorato e Bracconeri, quello rosso, il roscio, te lo ricordi? Assolutamente, Bracconeri è di Roma, Bracconeri è di Roma, eppure molto di destra, sarebbe stato perfetto, devo dire, è vero. Vedi, invece ci hanno rotto le uova nel paniere, come si suol dire. Niente, quindi Bertolaso. Poi alla fine, secondo me, si candiderà a Tronca, guarda. Tronca, no. Tronca, no, sì, guarda, questo è quello, no, è che sta facendo tutte le mosse per candidarsi. No, no, questa Massimo De Manzoni, questa no, non succede, nell'Italia impazzita non succederà. Tronca. Non arriveremo a tanto, però... Siamo vicini. Siamo andati molto oltre a tutto il pensabile e l'impensabile, guarda, non arriveremo a tanto, ma dove? Abbiamo superato tutti i limiti in ogni senso. Questo effettivamente è vero, abbiamo visto di tutto, quindi perché Tronca no? Tutto e di peggio. Perché guarda, Tronca no a questo punto? Guarda, allora per dire, per eliminare il dibattito del Senato c'è voluto il Festival di Sanremo. Festival di Sanremo ha detto, guardate, al Senato sta facendo cose dell'Ottocento, basta, via, noi siamo molto più... molto più di là, no? Sì, effettivamente sì. Tronca, non si sa. No, invece vi voglio far sentire ancora. Allora, quello che abbiamo sentito oltre a Giovanardi era Airola del Movimento 5 Stelle. Un pochino, devo dirlo, lo dico sommessamente anch'io, ma non se ne può più di questo dibattito sulle unioni civili. Cioè, proprio non è una roba che non si vede l'ora che finisca in qualsiasi modo, ma non si vede l'ora che finisca. Comunque, dopo lo scandalo di Giovanardi che due si sono baciati, se è vero non si sa, Airola Movimento 5 Stelle ha regalato qualche perla, senti qui. Fino a sostenere che i transessuali avrebbero cambiato sesso tutti i weekend. No, non lo cambiano come voi cambiate le poltrone, è una roba seria. Abbiamo in quest'aula senatori con tre famiglie naturali, pensate, tre, che legiferano per proibire a qualcuno di non averne neanche una. Vabbè, insomma, anche lì, questo Airola, Massimo De Manzoni, dai, lo chiedo a tutti, tanto il pronostico, come finirà questa cosa? Basta che finisca in qualche modo, no, la questione è seria ovviamente, però, cioè, allora, finirà, le unioni civili passano, ci mancherebbe altro, ormai... non lo so, sulle adozioni vedo molta divisione. Si potrebbe anche ipotizzare che passino le unioni civili, però senza quel capitolo che sta spaccando in due l'Italia. C'è la stepchild adoption. Quella che hanno chiamato. Facciamo un esame. Tu, Massimo De Manzoni, sei in aula, devi pronunciarla. Vai. Stepchild adoption. Dai, Vincino, tocca a te, concentrati, Vincino. L'adozione del figliastro. Vabbè, io in inglese non mi ci metto assolutamente, sono peggio di Renzi col francese. Dilla in palermitano. Se pensiamo all'occiomo. Vabbè, ce l'abbiamo la compilation, la mitica, senti qui. La cosiddetta stepchild adoption. Vabbè, questo era Calderoli. Stepchild adoption è svenuto, ogni sillaba è svenuto, ma c'è di meglio. Stepchild adoption. Questa schifezza che si chiama stepchild adoption. La spregevole pratica dell'utero in locazione. Negli affemminati, negli omosessuali, la donna non si vestirà da uomo. E l'uomo non si vestirà da donna. Le Gianni Nannini, gli Elton John, i Dolce e Gabbana. Note, scusate ragazzi, note icone. Vabbè, dovete appoggiare Renzi, però rompete le scatole. Ma ragazzi, va di tutto, ma c'è anche la stepchild adoption. Uno, ma l'utero in locazione stravince. L'utero in locazione, Massimo, questa neanche l'avevi vista. L'utero in locazione. locazione. L'utero in locazione mi era sfuggita. Sì. Vabbè, caro Vincino, questo aboliamo questo Senato comunque. Aboliamo, e infatti verrà abolito, comunque ridotto a 100 senatori, tutti rigorosamente di madrelingua inglese. Ma la questione è che è entrato a gamba tesa il cardinal Bagnasco, rispondendo a una domanda ha detto che in pratica auspica il voto segreto. Questa De Manzoni non doveva farla, il porporato. Quello non si fa, cioè non si è mai visto che entri nei regolamenti del Senato, perché lui può esprimere i suoi auspici che la legge magari non passa, io lo capisco. Ma che dica anche come si deve votarla, sì. Mi sembra un po' tantinello, sì. Eccessivo abbastanza, ecco. oggi il migliore è il Giorno, la prima pagina del Giorno c'è un fotomontaggio, chiaramente c'è il cardinal Bagnasco, cioè con la papalina rossa, no? E montato sulla faccia, cioè sul corpo del presidente della Camera, quindi vede papalina rossa, giacca e cravatta sullo scranno, presidente Bagnasco, o meglio del Senato, no? Quindi il corpo di grasso e la testa del cardinal Bagnasco. Vincino, tu che sei un anarchico, mangiapreti, è sempre stata misterica, no? Cosa, no? Per cui tutte le cose segrete, i misteri, non... cioè è per affossarlo, come dire, è intervenuto per affossare la possibilità di essere il voto segreto in Senato. Ah, cioè se ce n'era, se ce n'era, certo, una, è come dire, l'ha fregati completamente ora. Non... Cioè, c'era una mezza possibilità di dare il voto segreto, via. Se non sono giocati così. È intervenuto così. Bagnasco e ha detto basta, via. Non... Le possibilità sono ridotte a zero. Beh, ma insomma, tu sei anche un po' crudele, sei un po' mangiapreti tu. L'Italia è nata mangiando i preti. Beh. L'Italia i primi 50 anni tutti anticlericali, proprio là, Portapia, massoni, basta, no? Poi dopo c'è, poi è venuto il fascismo e ci ha fatto fare l'accordo, il fascismo, tutta colpa del fascismo, sì. Esattamente, Vabbè, che devi fare. Vabbè, andiamo. Ah no, c'è Mentana che se la prende con Bagnasco. Sentite Mentana, come si è arrabbiato. Il cardinale Bagnasco che chiede il voto segreto. Non si può pensare che spetti a chi nulla c'entra letteralmente con la dialettica all'interno delle forze rappresentative del Senato e dire come si deve votare. Nel segreto dell'urna Dio ti vede e il politico di turno, la Cirinnà, Scalfarotto, Renzi, no. Dio ti vede nell'urna, mamma mia. Arrabbiatissimo. Anche Mentana si allarga. Anche Mentana, dobbiamo subito riprenderlo. Dobbiamo subito mandargli anche lui un Don Livio Fanzaga. Un Don Livio Fanzaga che lo conoscete, no? Mitico Don Livio Fanzaga che sistema tutti. Anche il diavolo serpeggia anche nel TG della Sette. Senti qua, Don Livio. Dove tanti parlamentari che si proclamano cattolici dovrebbero far prevalere la loro coscienza sull'obbedienza ai capi bastoni. Non dimenticate, cari amici, che Pilato, per pur di perdere il potere, per paura di essere tolto dall'imperatore come prefetto della Giudea, Pilato poi effettivamente perse il potere. Capito, a lavarsi le mani? Vabbè, dai, andiamo al traffico. A Milan, io voglio sentire il traffico! Volevo sapere da lei, ma perché la presidente Boldrini, che fa tante storie sul femminile e maschile di certe parole, non combatte con altrettanto impegno tutti i termini inglesi che questo governo ci rifila sempre più spesso per farci capire un fico secco delle leggi che vuole far passare a tutti i costi tra l'ignoranza della maggior parte delle persone? Milan, come fai a vincere la guerra contro la mafia, la camorra e la 'ndrangheta quando sono loro che la gestiscono? È inutile fare la guerra, tanto sono loro che la gestiscono. Ciao. Milan, voi che parlate, no? Parlate di giornalismo, parlate dall'alto così. mi puoi spiegare perché sviscerate gli argomenti, li argomentate continuamente, però non cambia mai niente? Ma perché non cambia mai niente? Alessandro, Milan, personaggetto, con quel sorrisetto sulla faccia, uno che ha cambiato nome per manifestare la sua fede sportiva, campione mondiale di cialtroneria. Vabbè, in realtà il mio nome è questo e me lo porto. E che dobbiamo fare? Siamo con Vincine, con Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Vedi, Massimo, però c'è gente che ci scrive: ma perché un vescovo non può dire la sua riguardo al cardinal Bagnasco? Il problema è, non so, è quando... Permette. No, ma io l'ho detto, la sua la può dire, ci mancherebbe altro. Mi pare un po' improprio che entri nei regolamenti di... un ente di Palazzo Madama, sarebbe come se io mi mettessi a sindacare su come diavolo eleggono il Papa, che è un procedimento abbastanza oscuro, ma insomma io non è che, che grasso si metta a dire no, però il prossimo Papa adesso dovete leggere in questo modo così ma sì. Come ne leggete sempre voi, esatto. vi riunite così, non è più lo Spirito Santo che decida, ma insomma cambiamo un po' queste regole. Vabbè, insomma, Vincino non chiedo più niente, perché se un mangiapreti no, per carità, l'hai già detta la sua. Vabbè, vuoi dire qualcosa dei tuoi amici del Movimento 5 Stelle? Ah sì, ecco, ma quello là, lo staff, quella cosa terribile, oscura, questa dei 150.000 euro, questa mi interessa. Ma guarda, è un imbroglio, allora, ma che è un imbroglio? Non allora... vale niente, tranquilli, non... è come il regolamento del Monopoli, hai capito? È una balla, allora... è una balla fatta da ignoranti, guarda che su questo nessuno ha mai pagato nulla per su una cosa questo simile. Ieri firmate, avevamo tutto, state tranquilli, è un consiglio a quelli là, firmate tutti, guarda. Attenzione, guarda che ieri avevamo l'avvocato Paniz che difende anche quelli che vogliono fare ricorso. L'avvocato Paniz è quello di Rubi, la figlia di nipote di Bubara, è un avvocato stimatissimo, costituzionalista, e ha detto che ovviamente per i parlamentari non vale, c'è il vincolo di mandato, ma per i consiglieri comunali, se uno fa un accordo e ti dico mi devi dare 150.000 euro se procuri danno all'immagine del movimento, guarda che dice non è detto che non regga di fronte a un tribunale. Ma per favore, ma quale non è tribunale? Detto, ma non è detto. Quello è un ricatto, non esiste proprio, ma stai scherzando. Però vogliono influenzare un eletto, ma è un ricatto su un eletto, ma se fosse solo Berlusconi averlo fatto l'avrebbe già arrestato. Ma da influenzare, dicono basta questi Volta Gabbana, oggi Open Police. Ma che c'entra il Volta Gabbana? Come no, lo fanno per quello, per evitare, ci sono stati perché vogliono che lo staff comandi, questa cosa oscura, terribile, guarda, Puzzolente, che è lo staff, dai, non è eletto da nessuno, ma scherziamo, dai. Addirittura Puzzolente, lo so. Però ma sì, sono tutti vestiti di nero, con gli occhiali neri, con la cosa all'orecchio, con cui si parlano, dai, no, sono terribili. Ma no, però mi ha colpito due giorni fa, Massimo, leggere che anche Maurizio Belpietro, insomma, il direttore di Libero, ha detto non condividiamo nulla della politica 5 Stelle, ma questa cosa non ci dispiace, no? Ma sì, è già un sasso nello stagno. Il problema del voltagabbanismo c'è, insomma, ogni legislatura, in questa in particolare, assistiamo a mandrie di ma Vincino li ama questi, sono quelli che stima di più. De Petris, l'Italia, eccolo, vedi, lui li stima questi. Se Vincino lavorasse in un giornale si renderebbe conto, io non dico metà, ma... ogni anno ci sono una quota di lettere di lettori che veramente si scagliano contro questa pratica, perché effettivamente sentono il loro voto tradito. Ma come? Io ho votato delle persone che adesso sostengono l'esatto opposto del motivo per cui io l'ho mandato in Parlamento. Uno ha diritto di cambiare idea. Che si accomodi fuori dalla porta. Sai che Open Police ha fatto un calcolo: se si applicassero i 150.000 euro, la multa di Casaleggio ai 335 trasformisti di questa legislatura, vale 50 milioni di euro. Così. Allora, 50 scusi, Sì. Se vogliamo carezzare il pelo al, allora, la maggioranza dei italiani è per la pena di morte, va bene? Così. Ma allora, no, che discorso? No, eh sì, perché che la maggioranza dei italiani è contro il ma il vincolo di mandato. No, ma il problema c'è. Il problema c'è. Ma poi il vincolo di mandato. Non puoi negare che il problema è la libertà della politica, non c'è questa non è la libertà, è la buona politica che dalla libertà si è passati all'abuso di questa libertà. All'inizio nasce, ma il vincolo di mandato sì, l'Italia nel 1870-80 no, quando era il trasformismo Vincino, nasce il vincolo di mandato nasce per contrastare il fascismo, uscivamo da un periodo buio e quindi per non, per non mettere pressione ai parlamentari era giusto all'eletto. Ma certo, ma allora era giusto, ma adesso c'è in tutto il mondo il vincolo di mandato, dai, perché è connaturato con la democrazia, questa libertà è diventata è diventato sì. Gente che cambia 10 partiti in una legislatura. Ma in tutto il mondo è così, ma sceglieteli meglio, che vuoi che ti dica? Hai capito, Massimo, sceglieli meglio. Sceglieli meglio è un problema, oggettivamente. Ma che ne sai se poi uno per il mutuo si vende? Dai, parliamoci chiaro. Sicuramente si vende per il mutuo. E allora come fai a sceglierlo meglio? Vabbè, niente, abbiamo litigato, manco fossimo brunetta al mercato. Manco fossimo brunetta al mercato. Giovanardi, ma l'avete vista quella di Brunetta che va a comprare va a comprare 5 calzini e contratta, sentite, è registrato da qualcuno al mercato a sua insaputa di Brunetta e contratta sul prezzo, dai vai Brunetta. Mi dai 5 e mi faccio super sconto però. 5 calzini? Come? 17 e lo sconto? 17 euro sono 5, 10 euro, dai. Ce la faccio e vabbè. Aspetta, vediamo cos'ho. Possono fare 15. No, aspetta. C'è Brunetta che va 12. Brunetta rilancia 12. No, ce la faccio. 12 e mezzo. Aspetta, 12 e mezzo. Non ce la faccio. Ce la faccio. Il povero ambulante è lì dalle 4 del mattino. Brunetta, e tu contratti su 50 spilorgi centesimi. De Manzoni, di qualcosa tu, porcaccia la miseria. Dici sempre che i politici sono lontani dalla realtà. Brunetta si cala nella realtà di tutti i giorni. È vero. Da questo punto di vista fa proprio la massaia come tutti quanti. No, ma le massaie fanno così. Porca miseria. Ma glieli davo io 50 centesimi a Brunetta se passavo lì. E daglieli questi 15 euro fottuti a questo qui che sta dalle 4 del mattino. Vabbè, dai, vi devo salutare, caro Vincino e Massimo De Manzoni, grazie per essere stati qui. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan, ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan. 1, 2, 3, adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici, forza, che la 145esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è terminata. Eppure la coincidenza di Sanremo non ha portato fortuna, nulla di fatto, forse la 146esima potrebbe essere quella buona. Vedremo. Adesso non resta che attendere una settimana decisiva e poi scopriremo. Comunque, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali e ci tuffiamo subito in questa lettura. È venerdì 12 febbraio e siamo qui con i titoli soprattutto declinati alla situazione finanziaria. Crollano borse e petrolio, sale lo spread, questo è il titolo del Sole 24 Ore di prima pagina. Piazza Affari ha perso anche ieri il 5,63%. Per il Corriere della Sera, borse, il caso Deutsche Bank e dunque la questione soprattutto dell'istituto tedesco. Repubblica, il grande caos delle borse, Unione Europea, Juncker, gela Renzi. Anche la Stampa mette insieme deficit, sfida di Renzi all'Europa, la sfida di Renzi, ma Juncker che risponde. Per Libero, la bancarotta di Renzi, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Messaggero, retromarcia USA, borse a picco. Il titolo invece del giornale è Banche, c'è il salva amici di Renzi. Nuova legge, sospetti su tre piccoli istituti toscani che vogliono evitare la fusione.